se indichi un punto lontano, forse lo sciocco guarda il dito. Nessuno frequenta il tuo orizzonte. Quale fromboliere paranoico, istanti d'ingenuo mattino rivolgi alle ombre segrete, cogliendo di notte clamori d'arena, da gatti con voce sapiente e volpi oramai fuori corso, dai tuoi silenzi orientali, vasti, nei rapidi sguardi che getti ai fedeli alla madre, natura che li ha generati, che in sé non conosce l'avverbio, lontano, ma solo le dita.